Nella sua forma più elementare, il redditometro è l'espressione del cittadino che esce la mattina di casa e dice: ma guarda quello che c'ha la Ferrari e paga meno imposte di me che ho la 500. Questa è una forma elementare, brutale di redditometro. Perché? Perché il redditometro non dà la patente di evasore a nessuno. È semplicemente un modo per verificare qual è la persona nei cui confronti fare delle indagini tributarie. È evidente che ci occorre uno strumento che permetta di utilizzare al meglio le, direi, scarse, purtroppo, risorse del fisco. Facciamo un accertamento nei confronti di chi, più di altri, ci dà l'impressione di evadere le imposte, poi forse non le evade. Io posso anche comprendere da contribuente, anzi comprendo, la necessità, l'opportunità di sistemi di controllo e verifica per stanare gli evasori, che ci saranno comunque e in qualsiasi regime di tassazione. Non comprendo bene, comincio a comprendere un po' meno il fatto che il redditometro si inserisca in un sistema che per quantità della richiesta fiscale e per qualità del rapporto tra amministrazione fiscale e cittadini ci fa sembrare un po' tutti come dei mariuoli. La parola mariuoli non la dico io, l'ha detta un anno fa, prima di concludere il suo mandato, il garante della privacy Pizzetti, proprio a proposito di come l'amministrazione fiscale ci tratti.